il cielo. La terra finisce e la comincia al cielo. Guardo ed anche stasera fa pensare a te. Il cielo vicino e lontano, vedo sempre il cielo. Ricordo, ricordo lo stesso colore in fondo agli occhi tuoi. Si può volare oltre le nuvole, ma sempre in alto tu vedrai il cielo, si perde il pensiero quando guardo il cielo, ed ecco, ecco, ritorna il ricordo dolce che ho di te. Può volare tra le stelle, ma sempre in alto troverà. Il cielo, la terra finisce e la comincia il cielo. Ed ecco, ecco, ritorna il ricordo dolce che ho di te. La comincia il cielo.